sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Monti, coalizione per la crescita, meno tasse sul lavoro, luce alla fine del tunnel. Fiscal cliff, anche la Camera americana vota sì. I titoli di Stato dell'area euro chiudono il 2012 con guadagni record, in Italia più 21%. Saldi al via in tre regioni, si prevedono cali dei consumi. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biachesi, dalla redazione di Radio 24. In apertura Mario Monti, che difende ancora oggi il suo operato di governo e rilancia una coalizione per la crescita. Meno tasse sul lavoro e meno spesa pubblica. Da candidato premier Mario Monti indica quelle che in caso di vittoria a suo giudizio dovrebbero essere le priorità. Destra e sinistra sono distinzioni superate, ribadisce poi a Radio Anch'io il professore, secondo il quale la prossima dovrà essere una legislatura costituente. Per questo occorre una larga maggioranza più ampia di quella che servirà per governare. D'ora in poi l'obiettivo, dovendo essere la crescita, le riforme, l'occupazione e la questione sociale, bisognerebbe avere un'altra coalizione, coalizzare coloro che sono disponibili per le riforme e non per la conservazione. Questo sarà il tema politico del 2013. Monti non risparmia stoccate ai suoi principali concorrenti. Stop per le riforme che rendano l'Italia più competitiva, risponde a Bersani, che gli aveva chiesto nei giorni scorsi dove si sarebbe collocato. Quanto alla commissione di inchiesta sollecitata da Berlusconi per fare chiarezza sulla caduta del suo governo, il premier la definisce un'idea stravagante. Prima mi ha proposto come guida del centrodestra, poi ha detto che sarò un liderino. Berlusconi mi confonde sul piano logico, ironizza infine il presidente del Consiglio. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Intanto Silvio Berlusconi attacca nuovamente l'operazione di cento intorno a Mario Monti. Meglio i voti al PD che ad un centrino. E oggi Angelino Alfano era al microfono di Simone Spezia, ha parlato così di Mario Monti. Noi abbiamo avuto nei confronti di alcuni temi, mi riferisco al decreto di Eluana Englaro, mi riferisco alla difesa della famiglia, in come prevista dalla nostra Costituzione, dal nostro codice civile, oltre che dalla nostra tradizione e dal diritto naturale, cioè la famiglia di un uomo e di una donna che ambiscono a procreare, la difesa della sussidiarietà come principio per cui il privato spesso può fare meglio dello Stato una serie di servizi. Noi abbiamo difeso una serie di valori e di principi concretamente in Parlamento, non lo scagliamo contro nessuno, abbiamo semplicemente detto che l'agenda di Monti non prevede questi valori e che alla fine, siccome questo centrino nascente guidato da Monti non è candidato a vincere le elezioni, l'unico partito, l'unico fronte che può coalizzarsi e vincere contro la sinistra è il nostro. Se invece dovesse vincere la sinistra, inevitabilmente l'accordo Bersani-Vendola sotto il profilo di dei cosiddetti diritti civili, come li chiamano loro, andrebbe in una direzione che a nostro avviso non sarebbe quella auspicata dalla Chiesa, andrebbe verso uno zapaterismo assolutamente chiaro, già vi sono tutti i segnali in questo senso, e quindi la separazione dell'area alternativa alla sinistra prodotta da Monti come risultato oggettivo produrrà sul piano di alcuni ambiti programmatici esattamente il risultato che la Chiesa vorrebbe scongiurare, e quindi Monti ha poco da sdegnarsi o da detestare. Il dato concreto è che se vince la sinistra porterà avanti delle cose che sono in direzione, che vanno in direzione opposta rispetto a quelle che ha voluto il Popolo della Libertà sotto il profilo dei diritti o dell'agenda bioetica. Il punto di Stefano Folli. È sempre più chiaro che la campagna elettorale riguarderà soprattutto il Senato. Alla Camera il premio di maggioranza molto alto favorisce Bersani, a meno di clamorose sorprese, ma è al Senato, dove il risultato è sul filo, che si decidono gli equilibri della prossima legislatura. Ed è lì che la lista Monti gioca la sua vera partita. Se la coalizione di centrosinistra vince anche a Palazzo Madama, i seguaci dell'agenda Monti avranno una molto limitata capacità di condizionamento. In caso contrario, si apre la strada a una complessa trattativa post-elettorale fra i partiti. Il leader dell'UDC Casini lo ha detto in maniera esplicita: Bersani, per essere premier, dovrà affermarsi anche a Palazzo Madama. E questo vuol dire una campagna in cui i centristi pro Monti dovranno farsi largo, e non sarà facile, sconfiggendo Berlusconi in primo luogo e poi prendendo le distanze dalla sinistra. Le regole sono queste e la corsa comincia. Grazie a Stefano Folli. Fiscal cliff, anche la Camera ha votato sì. Dopo una battaglia politica epica, Washington, gli Stati Uniti sono riusciti a superare il pericolo di un precipizio al di là del fiscal cliff, ma il costo di questa battaglia resta elevato, soprattutto per il Partito Democratico che esce da questo scontro sconfitto, e soprattutto per il futuro del Paese, perché in questo caso è vero che si è superato lo scoglio fiscale, quello relativo agli aumenti delle tasse per 100 milioni di americani, ma non si è superato lo scoglio dei tagli alle spese. È questo che la maggioranza dei repubblicani chiedeva di affrontare, ma il tema tagli alle spese è stato rimandato a un secondo tempo. Ci saranno 2 mesi per poter evitare l'avvio dei meccanismi automatici che imporranno 110 miliardi di tagli alla spesa pubblica americana. Saranno 2 mesi difficili, perché i repubblicani sanno di poter contare come arma di ricatto sulla scadenza del tetto sul debito, che avverrà grosso modo alla fine di febbraio. I democratici, invece, forti del risultato raggiunto dal punto di vista delle tasse, faranno il possibile per evitare di cedere sul fronte della spesa. Archiviata una battaglia politica, dunque, se ne apre un'altra. La posta in gioco cambia, ma non è meno importante. Invece della caduta da un precipizio fiscale, potrebbe esserci in gioco la bancarotta degli Stati Uniti. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. I titoli di Stato dell'area euro chiudono 2012 con guadagni record, con l'Italia anche protagonista dopo l'intervento della BCE, di un rally dopo 2011, peggior anno di sempre. L'indice dei titoli di Stato dell'Eurozona ha segnato più 12% nel 2012. Per l'Italia l'incremento, il primo del 2009, è addirittura del 21%, per il Portogallo del 57%, il più forte almeno dal 1994. E sentiamo da Deborah Rosciani come stanno andando i mercati finanziari proprio dopo l'accordo sul fiscal cliff. Eh sì, il raggiunto accordo per evitare il baratro fiscale negli Stati Uniti ha dato il là agli acquisti, che sono anche molto forti in questa prima seduta del 2013. Forti rialzi stamattina per le borse asiatiche, con l'Hang Seng di Hong Kong che ha chiuso con un rialzo di quasi il 3%, portandosi sui massimi da giugno 2011. Stamattina molto forte anche l'Europa, e si preannuncia un balzo in avvio anche per Wall Street, con i futures sull'S&P 500, sullo Standard & Poor's 500, in progresso di quasi 2 punti percentuali. L'Europa vede come regina proprio Piazza Affari. Milano guadagna il 3%, più 2,29% a Parigi, più 2 per Francoforte, Londra più 2,15%. C'è da dire che gli analisti sottolineano che, al di là della prima reazione positiva dei mercati, nelle prossime settimane c'è da aspettarsi ancora una certa volatilità, perché, come diceva Mario Platero, le trattative negli Stati Uniti continueranno e saranno difficili per raggiungere un accordo sui tagli alla spesa. A Milano volano le banche, e questo per effetto dello spread, il differenziale fra Italia e Germania sulla scadenza decennale sulle BTP stamattina è scivolato sotto i 290 punti base, portando il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario al 4,33%. Un'ultima notizia arriva dalla Germania. La Germania ha collocato titoli di Stato a 2 anni, la prima asta dell'anno, per oltre 4 miliardi di euro, registrando per la prima volta da ottobre un rendimento positivo su questo titolo. E per ora è tutto. Sono pienamente operative le nuove regole per le pensioni. Quel che è stato deciso per le pensioni a fine 2011 con una Elsa Fornero in lacrime da oggi è realtà. Il principio che sostiene tutta la riforma è quello che, visto che si vive di più, si va in pensione più tardi. Per accedere alla pensione di vecchiaia, ad esempio, gli uomini devono raggiungere 66 anni e 3 mesi e aver versato 20 anni di contributi. Per le donne dipende. Per le dipendenti del settore pubblico vige ad esempio la stessa regola degli uomini, invece per le dipendenti del settore privato ci vogliono 62 anni e 3 mesi di età, mentre per le autonome devono esserci 63 anni e 9 mesi. In entrambi i casi sono necessari sempre 20 anni di contributi. La legge al riguardo prevede una clausola di salvaguardia secondo la quale per tutti, uomini e donne del settore pubblico e del privato, l'età della pensione di vecchiaia non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021, anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alle speranze di vita. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con il nuovo anno cambiano anche gli ammortizzatori sociali. Si chiama ASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego, ed è una prestazione di disoccupazione che riguarderà tutti i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro senza distinzioni derivanti dal settore di appartenenza, dalla qualifica, dalla dimensione dell'impresa presso cui lavorano. La copertura assicurativa riguarda anche categorie fino ad ora prive di tutela, come gli apprendisti ed i soci lavoratori delle società cooperative. Per quanto riguarda la durata, nel 2013 ci sarà uguale a quella della disoccupazione, 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 per gli over 50. Poi comincerà a crescere e nel 2016 arriverà a coprire 12 mesi per i lavoratori più giovani e 18 per i più maturi. Nel contempo, dal 2017 sparirà l'attuale indennità di mobilità. Debutta anche una mini ASPI, vi si accede lavorando almeno 13 settimane, 3 mesi nell'ultimo anno, senza la necessità di ulteriori requisiti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche se da giorni molti negozi hanno già avviato una serie di promozioni, almeno per i clienti più affezionati iniziano ufficialmente oggi i saldi di fine stagione. Si parte proprio in 3 regioni del sud. Al via oggi i saldi in Campania, contemporaneamente anche in Basilicata e Sicilia, ma le prospettive non sono delle migliori. Per le associazioni dei consumatori, infatti, si registrerà senz'altro una riduzione degli acquisti da parte dei cittadini. Una marea di sconti da oggi saranno praticati in tutti gli outlet, boutique o centri commerciali della regione per consentire a tutti di poter acquistare il vestito tanto desiderato, ma anche tanto oneroso per un periodo di crisi come questo. Secondo la Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 359 euro per la acquisto di capi di abbigliamento ed accessori per un valore complessivo di 5,6 miliardi, pari al 18% del fatturato. I saldi invernali rappresentano il 18% della spesa totale del settore abbigliamento e calzature. In occasione di questi saldi, in Campania per la prima volta la regione e le associazioni di categoria hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per garantire i consumatori, come spiega Maurizio Madaloni, presidente ASCOM della Campania. Per tutelare i consumatori, per fare un clean up del mercato, per mettere in giusta luce l'attività dei tantissimi commercianti che operano nelle regole, e quindi voglio dire che non è giusto che, come dire, a ragione di pochi passino come una categoria non attenta alle regole. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E chiudiamo con l'assalto al portavalori in Puglia, avvenuto oggi sulla statale Lecce-Maglia. Un commando ha assaltato un portavalori che trasportava soldi, ha sparato con Kalashnikov illese le guardie giurate, come ci racconta un investigatore raggiunto pochi minuti fa da Raffaella Calanda. E sulla Lecce-Maglia, una strada statale 16, la Lecce-Maglia, e il furgone è arrivato qui, cioè la guardia giurata è riuscita ad arrivare perché si ricordava il comando arma più vicino ed è arrivato con le gomme a terra, però è arrivato vicino alla stazione e si è fermato, ecco. È stato bravo, ha avuto sangue freddo, non si è fermato, ha fatto retromarcia, ha speronato una macchina che gli veniva, gli andava dietro per bloccarlo, ha trovato uno spazio tra il camion che avevano messo al centro della strada e il guardarail ed è passato. Gli hanno sparato col Kalashnikov prima di fermarlo, però sulla fiancata sinistra, e poi gli hanno sparato di fronte quando ha fatto la retromarcia. I 3 sono illesi. Il comando che li ha assaltati sono scappati? Sono scappati, hanno messo fuoco alle macchine e sono scappati. 2-3 mesi fa forse è successo sulla Brindisi Taranto l'altro attacco al portavalori. Vi saluto qui Daniele Biacchessi, le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.